Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Pensioni, sale in Italia la spesa. Nel 2018 ha sfiorato i 300 miliardi secondo l'Istat, per oltre 7 milioni di famiglie è la prima fonte di reddito. Libia, Italia pronta a rimodulare la propria presenza militare secondo il ministro della difesa Guerrini. Iran spunta un nuovo video pubblicato dal New York Times in cui si vedono due missili colpire e abbattere il Boeing ucraino a Teheran. Smog fuori norma e polveri sottili nell'aria in molte città italiane che proseguono coi blocchi del traffico, ma i limiti così sono inutili, avverte il CNR. Anno positivo per il cinema, nel 2019 sono aumentati di oltre il 10% presenze in sala e incassi. Calcio, ancora Coppa Italia, si giocano Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal e Juventus-Udinese. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Per i prossimi 15 minuti la sintesi della giornata di oggi e poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Cominciamo con andiamo all'estero, avete sentito i titoli, però andiamo subito all'estero perché si rafforza la conferenza di pace prevista per domenica a Berlino con la presenza, oltre che del generale Haftar e del premier del governo di Tripoli, Sarraj, anche degli Stati Uniti. Intanto l'Italia conferma la disponibilità a potenziare la missione militare in Libia. Diplomazia al lavoro in vista della conferenza di Berlino di domenica, dalla quale si auspica una soluzione politica alla crisi libica. Saranno presenti anche gli Stati Uniti e ci sarà il generale Khalif Haftar, che aveva invece lasciato Mosca rifiutando l'accordo su una tregua a Tripoli blindato da Russia e Turchia, accordo sottoscritto invece dal suo rivale Sarraj. Il tema della Libia intanto al centro del dibattito italiano. Questa mattina lunga audizione del premier Conte al Copasir, ma senza rilasciare dichiarazioni. La linea del nostro paese è comunque quella del massimo sforzo per una soluzione diplomatica, mentre si ritiene prematuro l'invio di truppe sul terreno per una missione di pace. Nessuna minaccia al nostro contingente in loco, ha detto il ministro della difesa Guerini in audizione in Parlamento, ma bisogna rimodulare la missione italiana. Una riflessione sulla possibile rimodulazione del nostro sforzo, alla luce dell'improvvisa accelerazione degli avvenimenti del paese. Nessuna scorciatoia militare in Libia, ha detto dal canto suo Di Maio in audizione in Senato, ribadendo il ruolo dell'Italia e dell'Europa. Una missione europea in Libia, ha detto il ministro degli esteri, sarebbe un passo importante per fermare le interferenze esterne. L'unica risposta a questa instabilità è e deve rimanere politica. Nel Mediterraneo non esistono scorciatoie militari. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E restiamo all'estero. Un nuovo video mostra chiaramente come il Boeing ucraino, con 176 persone a bordo, precipitato dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran, sia stato effettivamente abbattuto da due missili. Lo ha verificato questo video e pubblicato il New York Times. Un nuovo video rivelato dal New York Times mostra che ad abbattere il Boeing ucraino sui cieli di Teheran sono stati due missili sparati a 30 secondi uno dall'altro da una base militare iraniana. Oggi il comandante delle forze aeree iraniane ha ammesso che le autorità militari hanno capito l'errore fin dalle prime ore, ma hanno ritardato l'annuncio per non compromettere la sicurezza nazionale. Ma il presidente Hassan Rouhani, in qualche modo rispondendo all'indignazione dei giovani che da quattro giorni riempiono le piazze, ha detto oggi durante una riunione di governo che le forze armate dovrebbero scusarsi con il popolo e rivelare tutto quello che è accaduto anche dopo l'incidente. Rouhani, in vista delle elezioni parlamentari del 21 febbraio, ha invitato le autorità preposte a non fermare la varietà delle candidature. Tensioni intanto sul nucleare. I paesi europei firmatari hanno attivato ieri il meccanismo previsto dall'accordo del 2015 per contestare il mancato rispetto dei limiti sull'arricchimento dell'uranio. Questa mossa è un errore strategico, ha risposto il ministro degli esteri Zarif, anch'egli moderato come il presidente Rouhani. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora veniamo in Italia e, come detto dai titoli, parliamo delle pensioni con i dati dell'Istat, secondo i quali nel 2018 la spesa per le pensioni nel nostro paese ha sfiorato i 300 miliardi di euro, 293 miliardi per l'esattezza. Per oltre 7 milioni di famiglie, ed è questo il dato forse su cui riflettere, la pensione è la prima fonte di reddito. La pensione del nonno salva oltre 7 milioni di famiglie dalla povertà, è quanto emerge dai dati Istat sulla spesa totale pensionistica. Ogni mese, spiega Federico Polidoro, responsabile Istat sulla situazione delle famiglie, l'assegno pensionistico del nonno rappresenta una certezza. La presenza di un pensionato dimezza l'esposizione al rischio di povertà, si passa dal 31,6 al 16,1, per esempio nel caso dei genitori soli. Ecco, complessivamente il cumulo di pensioni e redditi da attività lavorativa possiamo dire che è un altro elemento che abbassa proprio il rischio di povertà. Nel 2018 la spesa complessiva pensionistica è aumentata a 293 miliardi, segnando un incremento del 2,2% rispetto all'anno precedente. I dati confermano poi che il 36,3% dei pensionati riceve ogni mese meno di 1.000 euro lordi, il 12,2% non supera i 500 euro e un pensionato su 4 si colloca invece nella fascia di reddito superiore ai 2.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre per l'economia c'è da registrare la frenata di quella tedesca. Il prodotto interno lordo della Germania è cresciuto nel 2019 di solo lo 0,6%. Una buona e una cattiva notizia per l'economia tedesca. Quella buona prosegue per il decimo anno consecutivo il trend di crescita, quella cattiva è forse più pesante sotto il punto di vista del peso specifico. La percentuale di incremento non è mai stata così bassa da 6 anni a questa parte. Per il PIL teutonico solamente in più 0,6% nel 2019, ben al di sotto del 2018 quando salì dell'1,5% e ancora più giù rispetto al 2017 quando le statistiche rilevarono un più 2,5%. A pesare un mix di ingredienti non solo interni ma anche internazionali, quali le crisi commerciali, il caos Brexit prolungatosi lo scorso anno e la crisi del settore auto. A spingere l'economia sono stati soprattutto i consumi interni e l'edilizia, mentre l'industria, su tutti automobili, meccanica, elettronica e chimica, ha mostrato la corda e segni di stanchezza. Chi continua a festeggiare sono invece le casse pubbliche. Nel 2019 lo Stato tedesco nel suo complesso, includendo Länder e municipalità, ha registrato un surplus di bilancio pari a 49,8 miliardi di euro, l'1,5% del PIL. Maggiori entrate fiscali e tassi bassi, il segreto di questi ottimi risultati. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È attesa per oggi la decisione della Corte Costituzionale in Italia, chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum richiesto, anzi proposto, dalla Lega per l'eliminazione della quota proporzionale nella legge elettorale. Un'attesa che si intreccia con la riforma della legge elettorale. La Corte Costituzionale è chiamata a decidere sull'ammissibilità del referendum chiesto da 8 regioni guidate dal centrodestra, con la spinta decisiva della Lega di Matteo Salvini per introdurre il maggioritario puro. L'obiettivo è abolire la parte proporzionale dell'attuale legge elettorale, il Rosatellum, una decisione che potrebbe, secondo alcuni, influire anche sul destino della legislatura. Ottimista il promotore Roberto Calderoli, ma intanto si guarda alla riforma firma PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva sul ritorno del proporzionale con soglia al 5%, il cosiddetto Germanicum. Contatti tra Nicola Zingaretti e Matteo Renzi consolidano l'asse su questo sistema che, grazie ad uno sbarramento alto, potrebbe rivoluzionare il mondo politico. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Grande operazione antimafia oggi in Sicilia. I carabinieri del ROS e la Guardia di Finanza hanno arrestato infatti 94 persone appartenenti ai clan messinesi, oltre 600 i militari coinvolti in questa operazione partita dalla gestione illecita di fondi europei per l'agricoltura. Da tempo si sono alleati per sottrarre fondi all'Unione Europea, oltre 10 milioni in 10 anni, per terreni mai posseduti. Una mafia moderna, dedita più alle truffe che alle estorsioni e agli omicidi, scrivono i magistrati di Messina nell'ordinanza con cui hanno arrestato 94 persone, quasi 200 gli indagati, 150 le aziende sequestrate, in carcere i boss dei clan dei Batanesi e dei Bontempo Scavo di Tortorici, nel Parco dei Nebrodi, oltre al sindaco Emanuele Sardo Galati e insospettati professionisti. Questi ultimi avvallavano la regolarità delle domande con cui prestanomi delle cosche chiedevano i contributi per gli appezzamenti fantasma sulla cui proprietà nessuno ha mai controllato. Il procuratore antimafia Federico Cafiero De Rao: questo sistema criminale non avrebbe potuto funzionare se non avesse avuto il sostegno del centro di assistenza agricola, notai, professionisti, per conseguire appunto queste finalità. Un sistema denunciato dall'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Giuseppe Antoci, che nel 2016 subì un attentato mafioso. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo dei dazi commerciali. Alle 5:30 di oggi pomeriggio, a chiusura dei mercati europei, dalla Casa Bianca dovrebbe arrivare la firma dell'accordo di fase 1 tra Stati Uniti e Cina, un'intesa che comprende trasferimenti di tecnologia, proprietà intellettuale, prodotti alimentari e agricoli, ma anche servizi finanziari ed espansione del commercio. La Cina aumenterà significativamente le importazioni di prodotti agricoli dagli Stati Uniti, ed era questo uno dei punti a cui teneva maggiormente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Gli Stati Uniti dal canto loro revocheranno il rischio di nuove tariffe al 15% che sarebbero scattate il 15 dicembre scorso su quasi 160 miliardi di dollari di prodotti made in China. Gli incendi in Australia, pensate che sono talmente imponenti che il fumo provocato ha fatto il giro del mondo. Il fumo degli incendi in Australia, causato dalla grave siccità e dalle temperature record, si è sparso in tutto il mondo per poi tornare nei cieli ad est dello stesso paese. A rivelarlo la NASA nel suo monitoraggio dei roghi tramite satellite. Secondo il Massachusetts Institute of Technology di Boston, gli incendi che da settembre stanno colpendo e devastando il continente australiano avrebbero già immesso nell'atmosfera 400 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Parlando con i miei compagni di equipaggio, abbiamo realizzato che nessuno di noi ha mai visto incendi di portata così terrificante, ha detto, commentando le immagini, Luca Palmitano, l'astronauta italiano in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale. In Australia, sotto accusa, c'è la politica, incapace di mettere fine al disastro, mentre in un vortice d'emergenza senza fine si contano i morti, 28 persone, migliaia di case andate distrutte, 10 milioni di ettari di terreno bruciati, un numero incalcolabile di animali deceduti e roghi ancora incontrollati. Il fumo sprigionato dalle fiamme negli stati del Nuovo Galles del Sud e in particolare nel vicino stato di Victoria ha raggiunto Melbourne e portato scompiglio anche agli Australian Open 2020. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto le città italiane sono ancora alle prese con lo smog, con i livelli elevati di polveri sottili nell'aria e anche con i blocchi del traffico per cercare di migliorare la situazione, ma un avviso è arrivato oggi dal CNR, i limiti alle auto così fatti servono a poco. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso invece una buona notizia che riguarda il cinema. I cinema, le sale, perché aumentano nel 2019 incassi e presenze. 635 milioni e mezzo di euro e un numero di presenze in sala pari a 97 milioni e mezzo. Secondo i dati Cinetel è andato bene il 2019 al cinema rispetto al 2018. Si è registrata una crescita degli incassi del 14,35% e un aumento delle presenze del 13,55%. Buone le notizie anche per il box office della produzione italiana, incluse le coproduzioni. Ha registrato un incasso di 134,8 milioni di euro, più 5,39%, per una quota totale del 21,22%, nel 2018 era del 23,03%. Il primo incasso assoluto dello scorso anno? Il Re Leone, con oltre 37 milioni e mezzo di euro, seguito da Avengers Endgame e poi da Joker. Il film italiano che ha incassato di più nel 2019 è Il Primo Natale di Ficarra e Picone, con 13,3 milioni. Uscito all'inizio di dicembre, è riuscito nell'impresa di arrivare al sesto posto generale, unico italiano nella top 10. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport, il calcio. Oggi si giocano tre partite di Coppa Italia, mentre ferve, diciamo così, anche il calciomercato. Dario Ricci. Eh sì, Alessio. Allora, ricordiamo le gare, sì, di oggi, dalle 15 Fiorentina-Atalanta, poi alle 18 a San Siro Milan-Spal, alle 20:45 a Torino Juventus-Udinese, probabilmente in panchina sin dall'inizio Ibrahimovic e Ronaldo, ma staremo a vedere. Intanto appunto si intrecciano con gli ottavi di Coppa Italia le trattative del mercato. La più attiva è l'Inter, che ieri, battendo il Cagliari 4-1, ha ottenuto appunto già la qualificazione ai quarti, affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta. Inter che è vicinissima, sempre più vicino al centrocampista danese tuttocampista direi, Eriksen del Tottenham. Tottenham che oggi ha siglato e ha contrattualizzato Gedson del Benfica, quindi acquisto che fa pensare a questa prossima cessione. Ma intanto è cosa fatta lo scambio con la Roma, con Politano che passa dai nerazzurri ai giallorossi, mentre all'Inter arriva Spinazzola. Conte così sistema una pedina importante sulla fascia sinistra, che finora è quella che gli ha dato qualche grattacapo in più. Grazie Dario Ricci. 13:14 minuti, facciamo una piccola pausa. Effetto giorno torna tra poco. Parleremo, come anticipato, dello smog nelle città italiane, di quello che si sta cercando di fare con i blocchi del traffico, ma anche dell'avvertimento che arriva dal CNR sui blocchi che in questo modo rischiano di essere inutili. E poi faremo anche i conti, proveremo a fare i conti sul Green New Deal, cioè il grande piano di investimenti europeo. Qualcuno parla fino a 1.000 miliardi in 10 anni di investimenti. Quanto toccherà all'Italia di questi investimenti? Perché intanto arrivano i conti, arriva una tabella da Bruxelles secondo la quale l'Italia, che è un contributore netto al bilancio europeo, spenderebbe di più di quello che incasserebbe. Ma in Italia, come sapete, balla anche la questione dell'ILVA. 13:15 minuti, ci fermiamo, torniamo tra poco. 349-238-6666 per commentare. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Effetto giorno. Pensioni, sale in Italia la spesa. Nel 2018 ha sfiorato i 300 miliardi di euro secondo l'Istat. Per 7 milioni di famiglie è la prima fonte di reddito. Libia e Italia pronta a rimodulare la propria presenza militare, secondo il ministro della difesa Guerrini. Iran spunta un nuovo video pubblicato dal New York Times in cui si vedono due missili colpire il Boeing ucraino a Teheran. Smog fuori norma e polveri sottili nell'aria in molte città italiane che proseguono coi blocchi del traffico, ma i limiti così sono inutili, avverte il CNR. Non si possono riciclare perché mezze piene d'acqua, così finiscono nell'indifferenziato. All'aeroporto di Orio al Serio un progetto per ridurre l'inquinamento causato dalle bottiglie di plastica buttate via prima dell'imbarco. Calcio, ancora Coppa Italia, si giocano Fiorentina, Atalanta, Milan, Spal e Juventus Udinese. Alle 19 minuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Ecco noi Nicola Pirrone, dirigente di ricerca dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Buongiorno. Buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori. Allora, riprendiamo a parlare della situazione nelle città italiane con le polveri sottili che rimangono a galleggiare nell'aria. Oltre il dovuto, soprattutto perché mancano le piogge, ma anche perché ci sono delle cause di inquinamento. Sentiamo prima Pirrone, facciamo una piccola fotografia della situazione in Italia, soprattutto nelle città del centro-nord, in questo servizio, e poi andiamo anche alle cause di questo inquinamento. Resta alta l'allerta smog anche a causa dell'alta pressione che favorisce l'accumulo di inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera. Sul centro-nord peggiora dunque la qualità dell'aria e le città adottano i blocchi della circolazione. Polemiche a Roma per lo stop ai diesel fino agli Euro 6, previsto anche per oggi e domani. E insorgono le associazioni, ma l'assessore capitolino ai trasporti, Pietro Calabrese, ribadisce di aver pensato anzitutto alla salute dei cittadini. A Milano i nuovi divieti scattano in anticipo dopo 19 giorni in cui i livelli di polveri sottili sono risultati mediamente doppi rispetto a quelli ritenuti tollerabili per la salute dalla normativa europea. Siamo in emergenza, ha detto l'assessore alla mobilità del capoluogo lombardo Marco Granelli, che chiede alla regione di affrontare l'emergenza smog in modo strutturale. A Torino blocchi alla mobilità fino a domani e prosegue l'allerta in Emilia-Romagna e in Veneto, col codice rosso anche a Treviso, mentre a Vicenza scatta l'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e degli edifici aperti al pubblico. A Firenze provincia infine blocco dei mezzi più inquinanti fino a sabato prossimo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, per arrivare poi, prima di arrivare alle cause dell'inquinamento, io voglio dare soltanto un dato, che è un dato europeo, ma che riguarda l'Italia, perché l'Italia è il primo paese in Europa per morti da smog, 84.000 all'anno, davanti alla Germania 72.000, alla Francia con 52.000 e via andare gli altri paesi. Un numero di vittime questo, che è 20 volte superiore a quelle causate dagli incidenti stradali. Se si guarda la mappa delle concentrazioni di polveri sottili, che sono uno dei principali cause di inquinamento e di vittime da inquinamento, si vede che l'Italia, nella zona pianura padana del centro nord, è una zona ad altissima concentrazione. Pirrone, per quanto riguarda le cause, abbiamo detto mille volte, abbiamo sentito parlare del fatto che dipende dal riscaldamento, dipende dall'industria, dipende dai veicoli, dal traffico. Ecco, però oggi la collega del CNR, la presidente Perrino, ha detto: attenzione, perché questi divieti di limitazione della circolazione delle auto private rischiano di servire a poco, se non addirittura a nulla. Ci spiega perché? Ma perché la situazione la conosciamo bene, non è che bloccando il traffico qualche giorno con queste condizioni atmosferiche di alta pressione, come dire, c'è poca diluizione, poca dispersione, quindi magari gli effetti potrebbero non essere quelli desiderati, quindi sono sempre misure tampone che da molti anni andiamo ripetendo, non risolvono il problema alla radice, ma è solo di tipo amministrativo, per, come dire, non consumare i famosi 35 sforamenti all'anno previsti dalla legge, oltre il quale poi si va in procedura di infrazione. Questo è il motivo sostanziale, quindi. Ma diciamo, si rischia quasi con queste limitazioni del traffico di non ottenere quasi dei risultati, perché se non c'è vento e se non piove, stando per esempio agli ultimi dati ISPRA, che mettono insieme particolato primario e secondario, poi le lascio naturalmente spiegare anche la differenza tra queste due forme di PM2,5 che circolano nell'aria, il 38% di queste polveri dipende dal riscaldamento, il 15% dagli allevamenti, solo il 16% dai veicoli. Attenzione, traffico pesante su strade e autostrade, camion, e poi se parliamo delle città una parte ancora inferiore, quindi, come dire, si incide su una frazione della frazione. Diciamo, l'aerosol, le particelle secondarie si formano da sostanze gassose che sono in atmosfera, che sono emesse non solo dalle note sorgenti di cui andiamo discutendo, ma anche attività agricole e quant'altro, quindi ovviamente in una condizione meteorologica di questo tipo poi va tutto nello stesso calderone. Quindi la probabilità o la possibilità che anche col blocco del traffico i risultati attesi possono essere deludenti, potrebbe essere così, perché condizioni di forte stabilità come quella di questi giorni non è che aiutino molto. Diciamo che il miglioramento potrebbe essere molto lento rispetto a quanto desiderato. Quindi dobbiamo andare alla radice del problema. Il problema è ridurre il volume di traffico circolante che utilizza combustibili fossili, quindi spingere, cambiare paradigma, sì, completamente. Però mi scusi Pirrone se la interrompo su questo, per dare un altro elemento, un altro lato. Chiaramente non è nel ruolo, diciamo, di stabilire chi deve circolare, non deve circolare, quali sono le ordinanze. Lei sta dando un'indicazione di carattere, diciamo, tecnico, scientifico, se vogliamo. Però forse bisogna anche dire che vietare la circolazione delle auto in centro città e non preoccuparsi di quello che succede fuori dal centro, dove magari circolano veicoli ben più inquinanti che gli Euro 6 diesel, veicoli di 20-30 anni fa, e poi però l'aria si muove e quindi quelle particelle arrivano da tutte le parti. Ah, sì, infatti ci sarebbe da discutere quale centro città e quali sono le aree fuori dal centro città, di quante estese il centro città, proprio perché tutta l'isola urbana, che potrebbe essere anche abbastanza grande, soprattutto in città di medio grande dimensione come può essere Roma, Milano, Torino, Brescia e quant'altro. Ecco, quindi... Pirone, ma dobbiamo, insomma, voglio dire, non vorrei essere risultare pessimista, ma dobbiamo arrenderci al fatto che il centro-nord dell'Italia è in queste condizioni? Ma no, non bisogna arrendersi, bisogna lavorare affinché possano essere implementate quelle misure strutturali, e tra queste sicuramente ridurre l'utilizzo di combustibili fossili per il sistema dei trasporti, sia privato che commerciale. Quindi occorre spingere affinché la mobilità di persone e merci avvenga il più possibile con il sistema elettrico. Cioè, non ci sono alternative, la possiamo vedere da qualsiasi angolazione, ma se le emissioni continueranno sui livelli che conosciamo, sì, se il parco circolante, cioè i motori Euro 6, per bloccare gli Euro 6, cioè non è che il motore può essere, sono stati fatti passi da gigante in termini di efficienza dei motori, controllo delle emissioni, però i volumi sono sempre importanti, i volumi circolanti, quindi alla fin fine il problema sostanziale, proprio perché l'Italia è svantaggiata da un punto di vista di collocazione geografica, condizioni meteorologiche prevalenti, come sappiamo, andiamo ascoltando tutti i giorni, l'unico modo è cambiare paradigma nel sistema di trasporti, cioè incentivare il trasporto elettrico in tutte le sue declinazioni, in tutte le sue forme. Va bene, grazie per essere stato con noi, Nicola Pirrone del CNR, buona giornata, grazie. Vedremo, naturalmente il tema si ritorna sempre lì, è quello di cambiare la mobilità, perché è una cosa, come dire, che è alla portata, ed è anche alla portata degli amministratori locali, ed è anche la cosa su cui si sono fatti maggiori progressi. Però resta la sensazione che la causa principale possa non essere il traffico in città, ma possa essere anche il traffico fuori città, il traffico pesante, le polveri sottili emesse per esempio dagli aerei o dalle navi, anche che hanno una loro percentuale. C'è la questione degli allevamenti, nelle zone di pianura padana ce ne sono molte per esempio, e c'è il grosso macigno dell'inquinamento causato dal riscaldamento, che da solo rappresenta quasi il 40%, la fonte principale. Su questa cosa si sta facendo, bisogna intervenire naturalmente anche qua. Green New Deal è il tema nell'agenda anche europea, e proprio per superare questa situazione ieri sono stati presentati a Bruxelles il piano di investimenti previsto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Abbiamo cercato di fare i conti, di capire come verranno investite queste cifre, si parla di un investimento fino a 1.000 miliardi in 10 anni. Anna Marino. Il grande piano verde dovrebbe abbattere del 40% le emissioni inquinanti europee entro il 2030, puntando all'impatto zero entro il 2050. Nel piatto sono già pronti 1.000 miliardi, per la precisione 1.021, per i prossimi 10 anni, anche se per alcuni ce ne vorrebbero più del doppio, circa 260 all'anno. Ma le cifre nazionali sono ancora da definire nel dettaglio per i paesi membri e per l'Italia. Si parte con un totale di 100 miliardi del fondo di transizione, che aiuta le aree che saranno economicamente e socialmente più in difficoltà nella fase di transizione economica. Stesso schema dello stanziamento dei 10 anni, finanziato dal 2021 da 7,5 miliardi freschi del bilancio europeo, che in totale fornirà 502 miliardi in 10 anni. Faranno subito da volano, si stima, ad investimenti privati per una cifra finale tra i 30 e i 50 miliardi. Altri 45 miliardi dovrebbero arrivare da InvestEU, che nei 10 anni stanzia 279 miliardi. Il resto dei soldi del fondo li metteranno il cofinanziamento nazionale e la BEI, sempre più Banca Europea Verde. Per l'Italia si parla, secondo alcuni, di 400 milioni dei 7,5, più o meno come Francia e Spagna. Altri parlano di 4 miliardi e la Polonia ne prenderebbe 10. Ma le cifre nazionali erano tra i punti ancora aperti lasciati alla discussione tra i commissari europei, come spiega Andrea Roventini, economista dell'Università Sant'Anna di Pisa. In parte non c'è chiarezza, perché è stato appena rilasciato, non è stato ancora determinato le cifre precise sui vari paesi. L'economia polacca è molto più dipendente dal carbone per generare energia elettrica. I grossi problemi dell'Italia non è solo collegato al cambiamento climatico, ma deriva dall'inquinamento della pianura padana e fenomeni di inquinamento locale come l'Ilva. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:30, facciamo una piccola pausa con effetto giorno, torniamo tra poco, ripartiremo dall'allarme lanciato dall'ANCE, con il suo osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, ebbene solo il 2,2% degli investimenti previsti nelle opere stradali, infrastrutturali, ponti, viadotti e gallerie è stato effettivamente speso. Il 2,2% degli investimenti previsti dai concessionari è stato speso, solamente il 2%, troppo poco naturalmente. Torniamo tra poco a parlarne, 349-238-6666. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Un'auto elettrica! Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una smart elettrica. E basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42 All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Fai già accesso ai dati di Banca d'Italia. Da oggi puoi essere sempre connesso e presidiare gli affidamenti accordati dalle tue banche. MF Centrale Risk aggiorna automaticamente i dati della centrale rischi effettuando le analisi tipiche delle banche. Potrai visualizzare i grafici in CR, i fidi accordati, gli utilizzi, gli sconfini e tramite l'app riceverai le notifiche delle anomalie rilevate. Richiedi una dimostrazione su mfcentralerisk.it. mfcentralerisk.it, una garanzia Milano Finanza. Quindi, ieri ho preso un maglione, tre camicie, due paia di jeans e una giacca. Niente male per una giornata di saldi, eh? Ma vai, ho preso New York. Pensa in grande con i saldi Air Italy. Prenota entro il 20 gennaio e vola con sconti fino al 25% a New York, Miami, Toronto, Maldive, Los Angeles e tante altre destinazioni. Info e condizioni su airitaly.com. Air Italy. Imagine the world differently. Non so, dici che mi stava meglio Miami? Effetto giorno. Pensioni sale in Italia, la spesa nel 2018 ha sfiorato i 300 miliardi di euro secondo l'Istat. Libia, Italia pronta a rimodulare la propria presenza militare secondo il ministro della difesa Guerini. Dazi, oggi la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Cina, ma è una tregua e i mercati restano incerti. Gli investimenti sulla rete autostradale sono in forte ritardo per la manutenzione di oltre 7.000 tra ponti e gallerie, spesi solo il 2% dei fondi previsti, lo denuncia l'osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni dell'ANCE. Anno positivo per i cinema, nel 2019 sono aumentati di oltre il 10% le presenze in sala e gli incassi. Calcio, ancora Coppa Italia, si giocano Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal e Juventus-Udinese. minuti, di nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Una precisazione che riguarda il servizio di Anna Marino sulla questione del Green New Deal, cioè abbiamo cercato di fare i conti di quanti fondi ci sono effettivamente a disposizione in Europa col piano previsto dalla Presidente della Commissione von der Leyen. Ebbene, c'è un'agenzia ANSA di poco fa che dice il nuovo fondo per la transizione giusta da 7,5 miliardi di euro, che è una delle, se abbiamo capito bene, l'anticipo dei 100 miliardi che potrebbe essere, diciamo, la prima tranche spendibile presentato ieri dalla Commissione, destinerà all'Italia circa 360 milioni di euro. Tuttavia l'Italia, essendo un contributore netto al bilancio europeo, dovrà versarne circa 900 milioni di euro per alimentare il fondo, quanto emergerebbe dalle tabelle presentate dall'esecutivo europeo alla ambasciatori degli Stati membri, quindi anche all'Italia, secondo a quanto appreso dall'ANSA. Alla Polonia andrebbero invece 2 miliardi di euro. Avete capito bene, cioè incasseremmo 360 milioni, ma dovremmo versarne 900 per alimentare questo fondo. Presto per trarre delle conclusioni, ma naturalmente diciamo questa prima parziale conclusione non farà venire il sorriso a molti italiani, ma neanche al governo italiano, credo. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. È il giorno della tregua armata nella fase 1 della guerra sui dazi. Chiamarla pace è avventato. Non mancherà il trionfo comunicativo, probabilmente ad uso dei mercati, ma il tema è destinato a riemergere. I cinesi si impegneranno ad acquistare 200 miliardi di dollari di merci made in USA in più di 2 anni. Sono contenti gli agricoltori americani, elettori preziosi di Trump, perché venderanno più soia, grano, riso, sorgo e noci a Pechino. Con le rappresaglie cinesi che avevano bloccato quegli acquisti se l'erano vista brutta nei mesi scorsi. Ma sono anche i 50 miliardi di acquisti in più di gas e petrolio americano che fanno la differenza. Sono una quantità enorme e provocherà un terremoto nel mondo dei fornitori petroliferi cinesi, i paesi OPEC, perché dovranno cedere non poche quote di mercato. La controffensiva americana dovrebbe essere quella di tagliare della metà i dazi del 15% su 110 miliardi di merci esportate dai cinesi negli Stati Uniti, ma su altri 250 miliardi di merci restano invece i dazi e sono del 25%. Ma forse proprio su questo punto rimane ancora qualche ambiguità. Per questo è una tregua e non è una pace, anche perché la posta in gioco è l'egemonia sulle tecnologie legate all'intelligenza artificiale e al 5G. E questa sarà la fase 2 e sarà la guerra tecnologica, altro che dazi. Così dunque la tregua sui dazi, vedremo oggi se arriverà effettivamente la firma tra Stati Uniti e Cina. Adesso, prima di andare a, come annunciato, all'allarme del Lance per i mancati investimenti sulla rete stradale e autostradale italiana, il caso delle bottigliette di plastica negli aeroporti, non solo italiani ma del mondo. Sapete che si è costretti prima dell'imbarco, non si può entrare con la bottiglia aperta, quindi si beve, poi si butta a mezza piena. Questo però causa il fatto, per la legge italiana, che queste bottiglie di plastica non possono essere recuperate, differenziate, riciclate come plastica, ma vanno nell'indifferenziato. In molti aeroporti, anche internazionali, per esempio a San Francisco, si è deciso anche per questo di rinunciare alla vendita proprio delle bottigliette di acqua, di plastica o di altre bevande. Ci stanno pensando non a questo, ma a un'altra soluzione anche all'aeroporto. Il terzo italiano di Bergamo, Orio al Serio, è con noi Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO, Milano Bergamo Airport, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, nel vostro caso si parla di 350.000 chili, cioè 350 tonnellate all'anno di bottigliette che devono essere appunto così smaltite e non raccolte in maniera differenziata, come accade invece per solo 15.000 chili di bottiglie di plastica. Per questo problema voi state cercando di correre ai ripari con un progetto. Di che si tratta, Bellingardi? Sì, abbiamo sollevato questo problema in modo molto trasparente. Le bottigliette, come diceva lei, che vengono buttate poco prima dei controlli di sicurezza, spesso ancora con l'acqua, hanno la difficoltà che devono essere trattate. Praticamente bisognerebbe installare un impianto per trattamento di rifiuti, perché c'è ancora, come dire, la plastica contaminata dall'acqua. Certo. Stiamo lavorando per installare dei canali di flusso per recuperare l'acqua, ma soprattutto proponendo questo problema siamo riusciti, attraverso una collaborazione con il Comune di Orio al Serio e una cooperativa che ha la cooperativa Alchimia, che insieme appunto all'Ecambiente e agli altri hanno partecipato a un bando promosso da Fondazione Cariplo. Con questo sono riusciti loro ad ottenere un fondo di circa 90.000 euro, attraverso il quale vedremo di implementare tutta quella serie di interventi finalizzati alla differenziazione totale e a portare a un recupero completo. Contemporaneamente stiamo lavorando per stimolare anche una cultura di un utilizzo più razionale della plastica negli aeroporti. Ecco, è fiducioso che si riesca a trovare una soluzione. Potreste essere, diciamo, fare da apripista in Italia con questo progetto. Sì, che lei diceva sul recupero dei controlli di sicurezza, assolutamente sì. Si tratta praticamente di fare un piccolo progettino che permetta appunto di separare l'acqua, incanalarla in canali separati che quindi siano controllati e finalizzati correttamente, e dall'altra parte la plastica. Sulla cultura del saving della plastica per le bottiglie d'acqua il discorso è molto più ampio, lo sappiamo che presenta luci ed ombre, difficoltà, è una questione che è ancora molto discussa, ma senz'altro stiamo facendo il nostro dovere. Quello che abbiamo fatto noi è sollevare un problema in modo molto trasparente e chiaro. Certo. Questo problema c'è, controlli di sicurezza, tutti facevano un po' il pesce in barile, bisognava in qualche modo prendere il toro per le corna e capire come intervenire, perché come diceva lei i volumi sono tanti e sono importanti. Grazie Bellingardi di Milano Bergamo Airport. Grazie a voi ascoltatori, buon lavoro, salve. E adesso siamo di nuovo a parlare della situazione della rete autostradale italiana. Con noi Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ben ritrovato Maurizio. E abbiamo in collegamento anche il presidente dell'ANCE, Gabriele Buia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che oggi col suo osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni ha lanciato una sorta di, come vogliamo chiamare, di allarme, ma ormai insomma di allerte, di allarmi e di gridi di dolore ne abbiamo sentiti tanti. Poco più del 2% degli investimenti previsti per la manutenzione, ponti, viadotti, gallerie, è stato effettivamente speso. Possibile, Buia? Sì, questi sono i dati che riguardano le concessionarie autostradali. Quel dato che abbiamo fatto vedere è che sulla manutenzione si è investito solo il 2% di quello che doveva essere gli investimenti generali. E questo, alla luce di quello che sta accadendo, dimostra che è veramente poco, come del resto è poco gli investimenti che si stanno facendo sulle manutenzioni in generale sul paese, sul sistema infrastrutturale italiano, e che necessitano di molta più attenzione e molte più risorse, perché è l'Italia stessa che necessita maggiore attenzione su queste tematiche. Senta, quando dice concessionari intende Autostrade per l'Italia principalmente, per esempio, o anche l'ANAS, che formalmente è un concessionario ma potrebbe anche non rientrare in questa categoria? No, intendo proprio la rete dei concessionari, non certo l'ANAS. L'ANAS okay. Ha un problema diverso che abbiamo evidenziato oggi. Sì. Che ha perché anche ANAS diciamo è in ritardo su una serie di investimenti. Assolutamente, diciamo. Infatti noi abbiamo evidenziato oggi sì. Che l'ANAS ha utilizzato soltanto il 36% delle risorse che avrebbe dovuto utilizzare, per cui è una forte preoccupazione che abbiamo espresso oggi, che esprimeremo al legislatore. Non ci interessa la decisione politica su cosa sì. Farà domani ANAS, vogliamo però che questo ente funzioni, è il più grande ente appaltante italiano e, come lei ben sa, interviene sulla manutenzione della rete viabilistica italiana e non solo, per cui capisce che è strategico. Se questo ente non funziona, dobbiamo chiederci il perché e porre dei rimedi. Maurizio Caprino, allora intanto ci sono due dati: il 2% di investimenti sulla rete autostradale gestita dai concessionari, il 36%, se ho capito bene, di ANAS, è comunque molto di più, tra l'altro. Dati che naturalmente poi vanno saputi leggere, c'è stata la relazione della Corte dei Conti, tu questi dati li conosci abbastanza. Sì, c'è anche una conferma, nel senso che proprio un mese e mezzo fa Autostrade per l'Italia, che è il concessionario, se intendiamo per concessionari quelli solo per le autostrade a pedaggio, il concessionario più grande d'Italia, ha annunciato un'accelerazione nella spesa per manutenzioni, quindi segno che c'era una lentezza prima. Bisogna poi andare a vedere qual è, questo ancora non è stato chiarito, il totale, cioè se in questa accelerazione è anche previsto un aumento delle risorse appostate sulle manutenzioni. Questo ancora non si è capito e probabilmente fa parte della trattativa che in maniera molto informale, comunque al di là delle esibizioni muscolari che vediamo soprattutto nelle ultime ore, è in corso tra Autostrade appunto e il governo per quanto riguarda la questione della revoca della concessione. Ecco, ma questi mancati investimenti, queste mancate spese, questi mancati fondi, un 98% di fondi che non sono stati spesi per fare la manutenzione di ponti, viadotti e gallerie, da dove dovrebbero arrivare? Chi dovrebbe metterceli? Sono loro i concessionari? Sì, sono tutta loro. Tutta roba che tocca a loro? Sono loro, c'è però, ci sono alcune situazioni particolari in cui una parte deve mettercela lo Stato, perché per esempio sulle autostrade fra Roma e l'Abruzzo è emerso a posteriori un problema di sismicità, l'autostrada va fondamentalmente rifatta e bisogna mettersi d'accordo su quanti ce ne mette lo Stato e quanti il concessionario. C'è un contenzioso che va avanti e che sicuramente blocca la spesa. Ecco, questa mancata spesa da parte dei concessionari, Maurizio Caprino, diventa poi un elemento anche nella trattativa o nella gestione di questo processo di revoca che sembra ormai imminente da parte del governo nei confronti di Autostrade, perché se dovesse avvenire questa revoca, chi metterà poi comunque questi soldi? Ecco, è molto interessante questo, perché per quanto riguarda la manutenzione il governo va a contestare delle cose ulteriori rispetto al crollo del Ponte Morandi, e quindi è un argomento a favore della revoca, però diventa anche un argomento contro la revoca revoca, perché il milleproroghe dice che in caso di revoca prende tutto ANAS, il quale abbiamo visto a queste lentezze che vediamo, per cui questo famoso 36%, per cui onestamente bisogna stare molto attenti. In particolare, io avevo scritto un paio di settimane fa sul fronte delle gallerie, perché si è parlato molto delle gallerie a rischio in autostrada la scorsa settimana, però ancora una settimana prima avevamo tirato fuori il fatto che stessa situazione c'è per l'ANAS, la cui rete però è molto più grande rispetto a quella dell'autostrada a pedaggio, quindi è un problema ancora più grande. Grazie per ora a Maurizio Caprini, un collega del Sole 24 Ore, anche a Gabriele Buia, presidente dell'ANCE, per essere stati con noi. 13:49, facciamo una piccola pausa, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. Eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati nell'orario in cui solitamente sentite la lettura dei giornali internazionali da parte di Giulia Crivelli, oggi assente, come è accaduto anche in passato, giustificata. Abbiamo con noi Giampaolo Musumeci per tenere alta l'attenzione sugli esteri, nel suo luogo e lontano, in onda dalle 16 alle 17. Come sempre, Giampaolo, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Siete al lavoro con la redazione, so, per affrontare un tema particolare, sì, che riguarda la Polonia. Prima, sì, però qualche notizia sulla giornata per quanto riguarda un po' la situazione in Libia. Allora, sostanzialmente il cessate il fuoco, non solo Haftar non ha firmato l'accordo a Mosca, ma non sta rispettando il cessate il fuoco, ci sono movimenti sulle linee del fronte vicino a Tripoli in particolare. E quindi, diciamo, il sospetto è che voglia alzare la posta in vista di domenica 19 gennaio, la conferenza di Berlino. Ancora non si sanno bene i presenti illustri, gli assenti illustri, però c'è molta diffidenza da parte degli analisti sulla concretezza di questa conferenza. Haftar è davvero vicino a Tripoli, ormai domina sulla maggior parte del territorio libico, è molto facile che voglia tentare un colpo finale, un colpo, cioè, di scena prima anche di... Anche non essendo, diciamo, esperti geopolitico di strategia militare, arrivare alla conferenza di Berlino avendo già in mano in qualche modo, sì, o sì, Tripoli, o comunque una parte ancora più ampia del territorio. Esattamente, sicuramente alza la posta, lo mette in una condizione di forza. Dobbiamo ricordare, c'è un pezzo del Guardian molto interessante quest'oggi, sì, anche il dislocamento di truppe. Allora, da un lato Haftar, oltre ai famigerati mercenari della Wagner, l'aviazione emiratina il mese scorso ha fatto arrivare 3.000 sudanesi come mercenari per combattere dalla sua parte, quindi in realtà anche senza l'appoggio esplicito e formale di Putin, militarmente bene. Serraj, quindi il governo di Tripoli riconosciuto dall'ONU, ha risposto, e questa è un'esclusiva del Guardian, con l'invio confermato da tre fonti in tre paesi arabi diversi di 2.000 siriani combattenti. Sono siriani già utilizzati appunto nel teatro siriano, che combattono contro il regime di Damasco, e sarebbero stati inviati in varie tranche: 24 dicembre 300 uomini, 29 dicembre 350 uomini, 5 gennaio 1350 uomini. E immaginiamo che questo sia stato facilitato dall'appoggio di Erdogan, della Turchia. Assolutamente, con quell'accordo di cui sappiamo, di spartizione, diciamo, del Mediterraneo. Ultima informazione di, sì, contorno, perché anche tanti ascoltatori si chiedono, ci chiedono, no, ma dove trovano tutti questi soldi per condurre queste campagne? Beh, bisogna ricordare, era un'esclusiva del Washington Post di qualche mese fa, ad aprile, prima che Haftar muovesse guerra a Tripoli, aveva ricevuto milioni di euro dall'Arabia Saudita. Quindi, insomma, ci sono ancora una volta attori oscuri, e molti di questi non saranno a Berlino, che stanno continuando a foraggiare questa guerra. Noi avremo una piccola esclusiva, cerchiamo ogni giorno di farla. Voce di un giornalista che non possiamo nominare né dire esattamente dov'è, comunque zona di Tripoli, che ci racconterà la vita ai tempi delle bombe, quindi come la società civile e i cittadini soffrono di questa guerra che ormai sembra infinita davvero. Motivo in più per ascoltarvi a partire dalle 16 nel suo luogo del lontano. Giampaolo Musumeci, state lavorando anche sulla Polonia, abbiamo credo, sì, un minuto per così darci l'idea. Sarò brevissimo. Allora, governo polacco, Kaczynski, braccio di ferro tra potere esecutivo e potere giudiziario, difficile da spiegare adesso in 50 secondi, ma sostanzialmente, diciamo, riduciamolo a un braccio di ferro e un'invasione di competenze. Risultato: sabato scorso hanno marciato in migliaia e migliaia, compreso centinaia di giudici provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea. La Commissione Europea si è espressa contro questo nuovo disegno di legge che limita l'indipendenza dei giudici, e insomma, nella Polonia sovranista, uno dei baluardi di Visegrad, si sta consumando una frizione che potrebbe essere non interessante, no, e magari far spostare anche qualche giudizio nostrano, no, sul potere avere dei sovranisti, chissà, vediamo. Grazie Giampaolo. Giampaolo Musumeci, l'appuntamento con Nessun Luogo è Lontano a partire dalle 16. È tutto per la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi regia, ad Alessio Maurizi. L'augurio di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per i titoli del GR delle 14.